Siamo in diretta, Emanuela Campanile al microfono. Oggi Papa Francesco è salito alla casa del Papa, ma in questo spazio speciale, specialissimo, a lui dedicato, cercheremo di raccontare non solo la notizia, ma anche l'eredità di un uomo, di una figura che ha segnato profondamente questi anni travagliati che il nostro mondo sta attraversando. Non possiamo dimenticare, ovviamente, impresso in tutti i cuori il sorriso, il suo sguardo e anche la sua voce con quell'accento che lo caratterizzava così fortemente, oltre al fatto di a volte inventarsi le parole, che però davano davvero un senso profondo al suo parlare, a quello che voleva comunicare. Tutto questo rimane ovviamente impresso nella memoria collettiva. Ma c'è anche un altro aspetto che vogliamo affrontare, che è quello della musica. Papa Francesco e la musica, anche lo diciamo spesso, la musica è pace. E ne parliamo qui con Marco Di Battista e Marcello Filotei, sono della redazione ovviamente musicale, che vanta una tradizione lunghissima alla Radio Vaticana. E allora direi di iniziare con Marco Di Battista per conoscere un po' il rapporto di Francesco con la musica. Di che tipo era? Allora, intanto buongiorno, filo di emozione nell'essere qui stamattina, però tu hai dato già una chiave, hai parlato dell'accento di Papa Francesco, un qualcosa che abbiamo sentito dall'inizio, che ci ha coinvolto sempre. E allora la citazione di Papa Francesco rispetto alla musica che più mi ha colpito è una citazione dal Don Chisciotte di Cervantes. Il Don Chisciotte a un certo punto dice: dove c'è la musica non può esserci nulla di cattivo. Ecco, questo per noi dei programmi musicali è una specie di proclama che abbiamo vissuto insieme, perché non perché abbiamo nessuna velleità di essere i buoni e buonissimi per sempre e sempre, ma naturalmente perché è proprio l'invito ad affrontare il problema della musica come una immensa possibilità. E qui Papa Francesco lo ha scritto più volte, lo ha detto più volte: l'immensa possibilità della musica come linguaggio che arriva a tutti, a prescindere dalla preparazione, a prescindere dalla cultura, è un linguaggio universale. E allora, dove c'è questo scambio di suoni, qualcuno che suona, qualcuno che ascolta, o insieme si fa musica, ecco, forse, Marcello, non ci può essere nulla di male, davvero, che dici? Marcello ti ha fatto la domanda direttamente. Sì. Scusa, ti ho rubato, perdonate l'emozione. Sì, intanto buongiorno a tutti. Certo, è una giornata difficile per parlare di musica, ma forse la musica serve anche a questo. Ma forse è anche il modo più indicato, tant'è che stiamo trasmettendo una musica particolare, no? Una musica di accompagnamento funebre, proprio. Una musica che aiuta anche questo momento di passaggio che è la morte. E certo, Papa Francesco ci ha aiutato molto a interpretare la musica, perché per lui aveva un valore sociale molto importante. Ha chiesto, per esempio, più volte, in diverse occasioni, ai musicisti di essere se stessi, di non aver paura delle critiche, di mantenere la propria originalità. Perdonami se ti interrompo, sei un compositore. Queste parole come hanno, che eco hanno avuto in te? Beh, mi hanno tantissimo spronato, perché ho capito che il fatto appunto di avere delle critiche, di non avere magari tantissime persone che ascoltano quello che componi, non è un valore. Il valore è rimanere originali, rimanere se stessi. E lui lo ha detto veramente in maniera diretta, e ha invitato tutti tutti, non solo i musicisti, come diceva Marco Di Battista, ha proprio spiegato che la musica è per chiunque, che è quello che noi abbiamo tentato di fare, continuiamo a fare con i nostri programmi musicali. La musica non è per i musicisti, la musica non è per i dotti, serve a sapere ascoltare non solo i suoni, ma, e sono ancora parole di Papa Francesco, il silenzio. E lui dice non solo ascoltate i suoni, ascoltate il silenzio, ascoltatevi a vicenda. E se non è questo un insegnamento di vita che può darci la musica, allora la musica non serve a niente. Marco, tu sei invece un musicologo, sì, colui che in qualche modo legge.